نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على. Buonasera, siete collegati con una nuova puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Ci sentiamo al termine della sigla. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم Bene Davide, innanzitutto buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci stanno ascoltando qui su www.radioasilo.it. Vi auguriamo una buona serata, oggi è martedì 13 luglio, questa sera abbiamo leggermente anticipato la nostra trasmissione Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo. Bene Davide, questa sera anziché come di consueto partire dalle notizie che riguardano il Medio Oriente e la Palestina, insomma come nostra abitudine, questa sera invece iniziamo da Cuba, proprio perché in questi giorni diciamo che ci sono dei fatti un po' particolari che si stanno consumando sull'isola caraibica, purtroppo fiaccata da decenni di embargo. Bene Davide, vediamo un po' nello specifico cosa sta succedendo. Bene. Buonasera a tutti e tutti, era doveroso partire da Cuba questa sera anche perché poi nella scorsa puntata abbiamo parlato anche dell'intervista e della venuta in Italia della figlia di Che Guevara, appunto per rimarcare la solidarietà con il popolo italiano e dall'altra a dimostrazione delle capacità della società cubana, nonostante l'embargo, nonostante la pandemia, di riuscire comunque ad esportare e a realizzare un vaccino che è efficace al 92,7% se non erro. Quindi nonostante ciò la società cubana ha dato la dimostrazione come sia possibile con un'etica, una società con un'etica diversa, anche se con uno sviluppo economico totalmente diverso dalla nostra, con un PIL pari a quello della Campania, di riuscire comunque a realizzare un vaccino ed esportarlo per il mondo, così come la solidarietà che ha dimostrato durante la pandemia. Ebbene, era doveroso partire da Cuba proprio alla luce di questi dell'ennesimo tentativo di destabilizzazione che è in atto nell'isola caraibica, un tentativo ovviamente appoggiato dal governo americano, proprio che avviene appunto in un momento delicato per l'isola, che è stretta nella morsa implacabile della pandemia, da un lato l'embargo dall'altro, e questa pandemia che ha causato una grossa crisi economica mondiale, ma in particolare per l'isola caraibica, in quanto l'interruzione dei flussi turistici ha rappresentato un duro colpo per l'economia cubana, così come la riforma economica che ha riguardato la modifica del sistema della doppia moneta. Quelle proteste sono partite domenica da Sant'Antonio de los Baños, una cittadina di 50.000 abitanti a sud-ovest dell'Havana, e si sono poi estese in altre città dell'isola al grido di abbasso la dittatura e patria e vita, come ci ricorda il giornalista del Manifesto Claudia Fanti. A scendere in piazza, come ha riconosciuto il presidente Miguel Díaz-Canel, sono state però persone con motivazioni diverse. Ha distinto infatti il presidente persone del popolo provate dalla pandemia e stanche della carenza di generi alimentari e di medicine, delle lunghe file per acquistare i prodotti di prima necessità, ma c'erano anche rivoluzionari confusi sulle vere cause dell'attuale crisi economica, che sono in gran parte riconducibili al tentativo appunto americano di strozzare l'isola con ogni mezzo necessario, e soprattutto in un momento, in questo momento pandemico, che rappresenta un duro colpo per l'economia cubana, che comunque non è che può far riferimento ad un supporto vivo e un supporto reale ed economico da parte dell'estero, nonostante il supporto che abbia dato a tutto il mondo durante la pandemia. Quindi il presidente è andato poi in televisione, ha fatto un appello a scendere in piazza, infatti è intervenuto per chiamare i cubani ad reagire alle provocazioni che sono state messe in piazza a Sant'Antonio de los Baños, poi a La Habana e Santiago, e che erano ovviamente coordinate con una marcia a Miami in Florida, una provocazione respinta anche all'ambasciata di Cuba in Italia. Infatti pochi istanti dopo l'appello con cui il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha concluso il suo intervento televisivo, la gente è scesa in piazza e i social network sono stati inondati di messaggi di sostegno al presidente della rivoluzione cubana. Gli abitanti dei quartieri vicino al Malecón della Habana sono scesi per difendere la rivoluzione contro le provocazioni di alcuni gruppi controrivoluzionari che hanno cercato di incitare al caos e alla disobbedienza, ma anche la popolazione di Santiago è scesa in piazza portando bandiere cubane e immagini di Fidel Castro. È ovvio che non solo, come dicevamo, non solo a Cuba ma anche a Roma, davanti alla ambasciata cubana, attivisti solidali con la rivoluzione cubana e un gruppetto di contras si sono fronteggiati separati da un cordone di polizia. È una situazione abbastanza complicata, ed la tensione si fa palpabile. Allo stesso tempo si assiste comunque ad le manifestazioni di piazza in sostegno della rivoluzione, lasciano da una parte ben sperare, sebbene è ovvio che in una situazione di crisi così forte per Cuba è necessario che il sostegno internazionale si faccia sentire. Di certo il socialismo cubano non sarà privo di limiti, ma la verità è che quello, come dice una targa nella piazza dove è stata proclamata la natura socialista della rivoluzione a Cuba, mi è stata impressa questa targa a La Habana, e dice, come dice, quello che non può sopportare l'imperialista è che abbiamo fatto una rivoluzione socialista sotto il naso degli Stati Uniti d'America. E quindi è questo il fatto più insopportabile per l'imperialismo. Poi possiamo discutere quando vogliamo dei limiti del socialismo cubano, ma la realtà è che comunque rappresenta un'economia e una società eticamente distinta dalla nostra, e proprio grazie a questa etica sociale e politica che ha permesso, appunto ad un paese con un PIL pari a quello della Campania di riuscire a produrre un vaccino senza i mezzi, quando poi ti mancano anche gli aghi per somministrarlo. الذين ذاقوا المرارة لا تهابوا النار ولا تخشوا الجدار بل ثوروا كاتشي جفارا وكونوا أنتم الشرارة أحييكم بحرارة إنكم أبطال بجدار Davide, infatti proprio la settimana scorsa anche da questi microfoni insomma parlavamo di Cuba, quindi è quanto mai hai azzeccato il tuo, come dire, ricordo rispetto a quello che dici sul vaccino cubano e anche sui medici cubani che durante la pandemia hanno assistito i sistemi sanitari di molti paesi del mondo, sono venuti anche qui in Italia. Poi purtroppo, come dicevo anche la settimana scorsa rileggendo l'intervista di Aleida Guevara, la figlia di Che Guevara, appunto il mondo intero ha dimenticato questo sforzo che Cuba ha fatto, però la stessa Guevara ricordava come loro contrappongono alla società capitalistica, al neoliberismo, proprio un sistema etico completamente diverso che qui in Europa potremmo chiamare welfare, ma che chiaramente si può declinare in molti altri modi. E quindi chiaramente queste proteste che vediamo ovviamente ci destano un po' di preoccupazione, perché chiaramente temiamo quella che può essere l'influenza da dietro alle quinte del mostro Yankee, che purtroppo quanti anni sono ormai? 70 anni che ci prova, e quindi fondamentalmente pure quello che è avvenuto qui in Italia, dove in piazza c'erano anche i Contras, che lo ricordiamo sono i cosiddetti crumiri cubani, sono quelli che sono anticomunisti, sono contrari alla rivoluzione, sono molti, provengono da quelle che erano le vecchie piccole borghesie cubane, che quindi con la rivoluzione hanno perso i loro privilegi e che quindi chiaramente sono sempre dalla parte del capitalismo nell'attaccare quelle che sono le conquiste che ci sono state sulla piccola isola nel Mar dei Caraibi, proprio grazie alla rivoluzione socialista, con tutti i limiti ovviamente del caso, però certamente stiamo parlando appunto di un modello di società completamente diverso rispetto alla nostra società occidentale o rispetto alla stessa società americana Yankee, che si trova a pochi chilometri dall'altra parte del Mar dei Caraibi. A contare il fatto che al di là delle dichiarazioni degli Stati Uniti che invitano Cuba ad desistere dall'uso della violenza, queste manifestazioni non sono state represse nel sangue come avviene invece nel democratico Occidente, anzi il Presidente comunque ha cercato di parlare con parte della popolazione perché è consapevole del fatto che la crisi economica possa incidere e possa creare malumori tra le persone, al di là del sentimento di vicinanza al socialismo cubano o meno, però la realtà dei fatti che comunque resta un pallino degli Stati Uniti, quello di far cadere Cuba, in quanto Cuba rappresenta comunque un simbolo di una piccola isola che non si è piegata all'imperialismo e che nonostante tutto continua a resistere, e rappresenta anche un esempio per il Sud America e quindi si inserisce comunque nella operazione di destabilizzazione portata avanti dagli Stati Uniti e che comunque ha un influsso che riguarda non solo le Americhe ma riguarda il mondo intero, e quindi questa operazione è ovvio che non può che lasciarci in allerta la necessità comunque di sostenere Cuba con qualsiasi mezzo, di far gridare forte il nostro sostegno a Cuba e al popolo cubano. Them belly full, but we hungry. A hungry mob is a hungry mob. A rain a fall, but the joint is tough. A yacht a yoke, but you'd not enough. You're gonna dance to jam music. Dance. We're gonna dance to jam music. Dance. Oh. Forget your troubles and dance. Forget your sorrows and dance. Forget your sickness and dance. Forget your weakness and dance. Cost of living gets so high. And poor, they start a cry. Now the weak must get strong. They say, oh, what a tribulation. Them belly full, but we hungry. Hungry mob is a hungry mob. A rain a fall, but the dirty tough. A pot of yoke, but you'd not enough. We're gonna chuck to jam music. Chuck it. Hey. We're talking dirty music. We're talking. Bene, ritorniamo in voce dopo questo piccolo problema tecnico, Davide, e voltiamo un attimo pagina, ci spostiamo dal Mar dei Caraibi alla Palestina. Sì, perché come dicevo prima, quando è saltata la comunicazione, dobbiamo dare una brutta notizia, in quanto è stata trovata morta vicino all'ospedale di Ramallah Shua, la figlia di Khalida Jarrah, che è l'icona e la portavoce del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Sono ancora sconosciute le cause della sua morte, quindi ovviamente ci uniamo a quanti si stanno sollevando per chiedere verità su questa morte misteriosa di un attivista che con tutte le sue forze denunciava le condizioni di ingiustizia subite dalla madre e da tutti i palestinesi illegalmente detenuti da Israele. Infatti ha partecipato attivamente a chiedere la liberazione della madre, in quanto che, secondo la sentenza emessa dai giudici della Corte Militare Israeliana di Ofer, è colpevole di incitamento alla violenza e di appartenenza ad un'organizzazione illegale quale il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Khalida Jarrah è stata arrestata a Ramallah il 31 ottobre 2019 e da alcuni anni entra ed esce dal carcere prima della condanna definitiva di marzo 2021. Infatti ha trascorso diversi periodi di detenzione amministrativa senza alcuna accusa nel processo, e il suo primo arresto risale al 1989. E Khalida, assieme a altri 7 deputati palestinesi, è una dei 7 deputati eletti palestinesi, attualmente detenuta in Israele insieme agli oltre 5.000 detenuti. A Khalida non è stato concesso nemmeno il permesso di poter piangere sulla tomba della figlia, e quindi ci stringiamo attorno a Khalida e alla sua famiglia non solo nel dargli le condoglianze, ma nel continuare il lavoro di denuncia di quelle che sono le condizioni delle detenuti palestinesi e quella che significa l'occupazione israeliana. Infatti, Michele, non so se volevi riaggiornarci su qualche statistica, oppure comunque ricordarci quali sono i numeri dell'occupazione. Sì, bene, Davide, come facciamo molto spesso durante questa trasmissione, insomma, vediamo anche conto di quelli che sono i dati, che ovviamente sono agghiaccianti rispetto ai prigionieri palestinesi. Proprio per rimanere in tema, Davide, di detenzione amministrativa, il 9 giugno di quest'anno, perché purtroppo le statistiche non sono aggiornate al mese di luglio, anche segno che probabilmente questi numeri sono in aumento. Comunque, come dicevo, al 9 di giugno c'erano 520 persone palestinesi in detenzione amministrativa, appunto come il caso della compagna Khalida Jarrah, che quindi appunto non hanno né accuse palesate né processo, ma questa detenzione amministrativa viene rinnovata di 6 mesi in 6 mesi senza alcun limite. Sempre al mese di giugno nelle carceri sioniste si trovavano circa 5.300 prigionieri politici palestinesi, tra questi 250 bambini, 40 donne, 400 prigionieri provenienti da Gerusalemme, 240 da Gaza e 12 membri del Consiglio legislativo palestinese, tra cui appunto anche la compagna. Quindi Davide, come dire, questi numeri che noi purtroppo leggiamo sempre, li leggiamo con un certo fastidio, ci riportano appunto a quello che è lo stato di non solo di occupazione ma anche di apartheid che c'è in Palestina. Ed infatti proprio rispetto a questa questione dell'apartheid, questo è scritto nero su bianco sulla legge fondamentale del cosiddetto Stato ebraico, del sedicente Stato ebraico. Tanto è vero che, come ci ricordava Michele Giorgio in un articolo che è uscito venerdì scorso su Pagine Esteri, appunto la Corte Suprema ha respinto varie petizioni con le quali appunto si chiedeva di rendere di modificare, di rendere illegale la legge fondamentale di Israele, nota come legge Stato-Nazione, che appunto è stata approvata dalla Knesset esattamente 3 anni fa e che definisce Israele come Stato della nazione ebraica e non di tutti i suoi cittadini, anche i non ebrei. Quindi gli 11 giudici, ad eccezione di George Carra, l'unico giudice arabo della Corte, guarda caso, hanno sostenuto che la legge non contravviene il carattere democratico di Israele. E quindi questa legge è solo un capitolo della Costituzione di Israele, che chiaramente è scritto nero su bianco, ha un carattere discriminatorio in uno stato di apartheid. Quindi come non pensare a questo quando si leggono le statistiche dei detenuti politici palestinesi, che appunto vengono incarcerati con accuse assolutamente strumentali, e a differenza dei cittadini israeliani, sempre in tema di apartheid, ovviamente vengono giudicati quando hanno questo privilegio di avere un processo, tra virgolette, da corti militari, da tribunali militari. Quindi chiaramente le varie pene, per quanto ovviamente strumentali, fittizie, vengono sanzionate in maniera differente e con una durezza ed una asprezza maggiore. Le stesse carceri dove si trovano i detenuti palestinesi sono delle vere e proprie carceri militari, quindi ovviamente con regolamenti assolutamente più, come dire, ferrei, proprio per come ulteriore forma non solo di discriminazione ma anche di tortura dei appunto prigionieri palestinesi. Quindi Davide, visto che siamo in chiusura di questa trasmissione, che appunto, come dicevo, stiamo trasmettendo in forma ridotta, io lancerei l'ultima canzone e la vorrei dedicare a tutti i prigionieri. Questa canzone in realtà è tratta da una bellissima poesia di Sant'Enotar Nicola ed è cantata da Ionda Rossa Posse, e appunto il titolo della canzone è Omaggio a Sante, e questa canzone parla appunto di detenzione, di privazione della libertà e anche di lotta. Quindi vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di serata, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre da questi microfoni su www.radioasilo.it. Arrivederci a tutti e tutte. All'improvviso rilassato, mentre spiega quel PM, spiega al giudice la storia. Arrestato, arrestato per la vita. 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni. Passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra. È colpa vostra! Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte. Sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato. Potrei uscire, uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio. Troppo! Troppo da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo! Troppo da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno, potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle. Denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, mentre dentro i divisori, vetri infranti nei colloqui, e la posta che è sottratta, censurata, poi la fame, fame alla sinara, e il compagno che va via via con la testa, via con la testa, via con la testa. Divisioni, rotture, ci doveva rafforzare, pugni chiusi nei processi, ritirate, tradimenti, tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno, mesi, anni e i silenzi. Troppo! Troppo da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo! Troppo da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno, potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Il mio avvocato a fianco scalpita, scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce. I giudici parlottano, parlottano tra loro, sì, e poi dicono: lei uscirà. Lei uscirà, sua moglie è già in viaggio da Bologna, sta arrivando tra 6 ore. Ancora! 6 ore sarei uscito, 6 ore per prepararmi foto, lettere, la sacca di saluti. I saluti ai compagni di 21 anni, fatti tutti tuffiato ed ora poco, troppo poco tempo, già soltanto poche ore sarei uscito. Lei uscirà. Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle, i compagni, troppi, ancora imprigionati, mai, vi scorderò, mi dicono sta in forma, questi miei compagni vanno amati, giovani, generosi, questi compagni vanno amati, rispettati, liberati!